Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E benvenuti anche a questo appuntamento legato al Pioniere. Oggi parliamo di Pinocchio, che è il protagonista della celebre favola per ragazzi Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Lorenzini, detto Collodi, una delle favole più note e anche frequentate dai ragazzi italiani. Una favola che ha suscitato sempre un grande fascino su tutto l'entourage che lavorava intorno al Pioniere, a partire dallo stesso Rodari, che, come ci racconta Giulio Einaudi in questa intervista colta da Mamma Rai, ha avuto fin dall'inizio della sua vicenda di scrittore per ragazzi in testa di dare una riscrittura del burattino di legno, rifiutato dalla casa editrice, poi si è avuto più avanti, già in età matura letterariamente parlando, la possibilità di dare vita a questo lavoro. Lei è stato, Giulio Einaudi, per credo almeno 20 anni, l'editore di Gianni Rodari. Ha incominciato a pubblicarlo, mi sembra, nel 60, con il libro Le filastrocche in cielo e in terra. Come è nato che scriveva Rodari, che aveva già pubblicato molte altre cose, ma mi sembra da altri editori? Lui aveva già pubblicato 6 libri, mi pare, nel 52. Quando ha scritto una lettera a un amico della casa editrice, dicendogli che stava lavorando a Pinocchio, e non c'è traccia poi di che risposte la casese gli abbia dato. Fatto sa che lui poi su Pinocchio ha ripreso a lavorare forse negli ultimissimi tempi, cioè è passato 30 anni con questo desiderio un po' frustrato. Poi è venuto il 60-61, ci ha mandato sto libro e c'è ancora una lettera sua del 61 che dice che gli sembrava di aver messo i calzoni lunghi. Perché dice tutti lo ammiravano, dice, guardo il libro come fosse fatto da un altro, non l'ho fatto io, questo mi dà molta importanza in casa, i miei figli, le mie cose, mi chiudono il cesso, dice, e tutti credono che sa che cosa faccia, in realtà leggo libri gialli, però dice, mi sembra di essere diventato una notore promosso, un notore importante, ha messo i calzoni lunghi, cioè è stato grande. La musica è tratta dalla colonna sonora del bellissimo lavoro che Comencini a suo tempo ha fatto per la televisione, un Pinocchio davvero convincente, a differenza di quello più scontato, a dire il vero, di Roberto Benigni, un lavoro più recente. Ma sicuramente questa casa editrice anonima che ha rifiutato il giovane Rodari, forse perché è troppo innovativo per i tempi degli anni 50, più tardi si sarà mangiato un po' le mani, mentre Giulio Einaudi ancora una volta ha dimostrato di aver avuto occhio lungo, e anche il Pinocchio di Rodari, che abbiamo sentito di 30 anni dopo, è stato poi un masterpiece, un capolavoro tante volte ripreso nelle scuole, filastrocche che hanno in qualche modo fotografato i vari passaggi della favola di Pinocchio e che ancora sono una sorta di passaggio obbligato per chi narra favole ai bambini italiani. Thank you. Ma lasciamo a Marinari Gianfranco, artista iscritto al progetto Pinocchio nella rete, la presentazione della filastrocca di Pinocchio proprio di Gianni Rodari. Ecco, questo è l'inizio del primo capitolo della filastrocca di Pinocchio di Rodari, intitolato La prima fuga, che risale al 54-55 ed uscì nel giornale per ragazzi e pionieri illustrato da Raul Gardini. Ed è una filastrocca che ripete un omaggio a Collodi, che ripete la storia del Burattino ed è rimasta praticamente tale quale fu scritta nel 54-55. Qui comincia, aprite l'occhio, l'avventura di Pinocchio, burattino famosissimo per il naso arci lunghissimo. Lo intagliò Mastro Geppetto, falegname di concetto ma più taglia, strano caso. E più lungo cresce il naso. Lavorando poi di fino fa le mani al burattino che isso fatto dalla zucca gli rapina la parrucca. Anche i piedi fa il monello al paziente vecchierello e schivando i colpi bassi gli insegnava i primi passi. Ma Pinocchio infila l'uscio. Salve. Strilla. Io me la sguscio. E Geppetto in va minaccia, torna subito birbaccia. Per disdetta in mezzo al vicolo sta un gendarme a perpendicolo che pel naso te lo acciuffa e severo lo rabbuffa. Per salvarsi quello inventa che il patrigno lo tormenta. Son scappato, gente buona, perché il brutto mi battona. La bugia fa un triste effetto, in prigion ci va Geppetto, accusatola per la disavizie e crudeltà. Dove sei ti vorrei veder, del tuo mondo vorrei sapere, forse Babbo Geppetto è con te. Dov'è il gatto che ti ingannò, il buon grillo che ti parlò e la fata turchina? Dov'è, carissimo Pinocchio, amico dei... Oltre alla figura di Rodari, si legarono alla vicenda del pioniere anche dei illustratori di primo piano. Uno per esempio era Raul Verdini, che aveva già cominciato a lavorare come vignette satiriche all'interno della rivista Il Marco Aurelio, che nacque nel 31 sotto l'egida fascista, quindi era una satira molto blanda e bonacciona, condiscendente verso i problemi del fascismo, mentre era durissima verso Stalin e verso Churchill. Poi che nel dopoguerra il Marco Aurelio continuò la sua vita un po' goliardica, seguendo di fatto tutte le sviluppo dell'Italia sia del dopoguerra che del boom degli anni 60. Ma ancora nel 35 Verdini, questo illustratore, fu arruolato assieme agli altri illustratori del Marco Aurelio, ovvero sia Gioacchino Colizzi, Mameli, Barbara, per disegnare le tavole per il primo film animato del fascismo che voleva contrapporsi allo strapotere di Walt Disney in chiave autartica, proprio ideato sulla storia di Pinocchio. Ma poi di fatto mancarono i soldi e la cosa non ebbe mai vita. Raul Verdini si prese la sua vendetta, diciamo così, quando poi, collaborando col pioniere, illustrò le tavole che seguivano questa storia, questa favola di Collodi, e più tardi appunto per Einaudi, disegnando le tavole su cui appunto viaggiavano le filastrocche di Rodari su Pinocchio. Ma il fascino della favola di Collodi non si è certo esaurito nel corso degli anni. Infatti, proprio in questo momento, il collettivo Stella Alpina di Novara sta producendo una serie di cartelloni per fare una grande mostra, proprio prendendo spunto da quella filastrocca di Rodari su Pinocchio illustrata da Raul Verdini, una filastrocca che girerà le scuole d'Italia e che sicuramente arriverà anche ad Oneglia, luogo della nascita di Rodari, dove ogni anno si tiene una rodariana nel parco appunto della fantasia, dedicata al grande scrittore per ragazzi. E in questo parco della fantasia vedremo le tavole legate alla filastrocca dello scrittore e le tavole dell'illustratore. Abbiamo raggiunto Piero Beldì, responsabile di questo collettivo Stella Alpina, che ci spiega il senso di questa operazione. Buongiorno Piero Beldì.

cercare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane è malato, so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi prima che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, tutti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola, e fra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possiate fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare, di alzarsi e scappare, anche se si sente male, vai scappa! Ma forse l'illustratore più illustre che ha lavorato nel Pioniere ed è stato un pilastro di questa rivista di fumetti per la sinistra è stato Vinicio Berti. Vinicio Berti è una figura di intellettuale di quelli che davvero rimpiangiamo, ce ne vorrebbero più anche oggi, perché era al contempo un intellettuale di raffinatissima ricerca creativa, vedremo, uno dei grandi padri dell'astrattismo italiano, ma d'altra parte un intellettuale di parole molto semplici, idee altrettanto chiare e al servizio del popolo. E in questo senso Vinicio Berti viene attratto fatalmente dalla favola di Pinocchio, ma leggendola evidentemente in modo un po' insurrezionale che non il tranquillizzante Walt Disney. Dopo la liberazione di Firenze nell'agosto 1944, prosegue per Berti la ricerca artistica in senso avanguardistico e, dal punto di vista dell'azione culturale, all'inizio del 1945, con altri amici fra i quali Brunetti e Caverni, realizza il giornale Torrente, per il quale disegna la copertina del primo numero. Entra a far parte come redattore del giornale Toscana Nuova, organo della Federazione Fiorentina del Partito Comunista Italiano, tramite le pagine del quale pubblica le tavole dedicate al Pinocchio di Collodi, personaggio totalmente rielaborato dallo stesso artista, non solo nella grafica, ma anche nei testi e nei contenuti. Nel Pinocchio c'è un itinerario, sostanzialmente, che è che non ha tendenza a dire che bisogna camminare, bisogna andare oltre, bisogna ribellarsi a qualcosa, a qualcuno, anche se non lo vuole, poi si trova a scontrarsi con la realtà e Pinocchio si identifica, anzi, dirò la verità, la finale un po' dolciastra nel romanzo ci dà un po' di tristezza, che Pinocchio fosse migliore dopo non ci si crede molto, da bambini infatti l'ultima pagina e lo stesso Collodi probabilmente finì con questo rapido dialogo. Dice come ero buffo quando ero un burattino e come sono contento di essere diventato un bambino per bene. Per quanto riguarda il fumetto e l'illustrazione per l'infanzia, il citato Pinocchio del 47 non è minimamente un unicum all'interno dell'iter evolutivo di Berti, ma neanche una, per così dire, nascita. Perché fin dalla seconda metà degli anni 30 e fino agli anni 90, Berti realizzò molte vignette e creò molti personaggi. Dal Gian Burrasca al Ciondolino di Vamba, da Chiodino e da Tomino, diffusi e tradotti in molti paesi del mondo, a Sgorbio ed ancora Pinocchio. È proprio il burattino di Collodi ad essere considerato da Vinicio Berti il suo ideale alter ego, alternativo, ribelle e proteso verso il futuro. Sul burattino tornerà più volte dopo il 1947, con un articolato fumetto con le sue scene e regia, come lo stesso artista l'ha definito. Ma non c'è solo il Vinicio Berti illustratore, seppur di grande livello, c'è anche il Vinicio Berti che è un astro nella cultura pittorica italiana, dal dopoguerra in avanti e anche prima ha illuminato le strade dell'avanguardia, quindi completando un personaggio che, come dicevamo prima, è davvero uno di quegli intellettuali che hanno fatto importante l'Italia e l'hanno ricostruito. Vinicio Berti nacque a Firenze nel 1921. L'artista ha sempre sostenuto tramite la sua pittura la possibilità di lottare e contrapporsi contro le debolezze e le arroganze del potere e della cultura ufficiale. Dopo un primo momento di prove varie, disegnative e pittoriche, dal 1942 si volge verso la creazione di opere di carattere realista e espressionista, iniziando così la sua partecipazione al movimento di rinnovamento dell'arte contemporanea italiana. Dal 1942 al 1945, Berti esegue molti disegni e vari quadri, con i quali in forma avanzata esprime la realtà durante la guerra. Nel 1946 fonda con altri pittori e letterati il movimento Arte d'Oggi, che per anni raggrupperà alcuni dei maggiori artisti italiani del momento e che si pone come momento di rottura con la tradizione pittorica nazionale, paesaggistica ed accademica. Io avevo 20 anni circa in quel momento lì e rappresenta, diciamo così, un momento un po' particolare, un momento di tensione, un momento di crescita. È un quadro che è figurativo, abbastanza evidentemente, insomma abbastanza chiaramente, però ha già immesso in sé delle forze e delle dimensioni espressive, dei momenti di dramma già personali in un certo senso e oggettivi, come sono, perché quelli che ci capitava in quel momento, dato che c'era il momento di guerra, perciò il personaggio qui può raccontare di una certa sofferenza. E questo è del 44, le forme sono più squadrate, gli oggetti sono più sintetizzati, i fatti della realtà sono più costruiti attraverso forme cubiche già in luce. Dal 1947 al 1950 Berti esegue opere di sempre più vasto motivo astratto classico e si raggruppa con Brunetti, Monnini, Nativi e Nuti, amici pittori vicino a lui per idee e risultati artistici, firmando con loro, nel 1950, il Manifesto dell'astrattismo classico, che in teoria e pratica pittorica dà l'avvio ad un nuovo ciclo per l'arte contemporanea, la fine della distruzione e l'inizio della costruzione. Dipingendo o facendo della sinfonia o facendo un'opera d'arte in genere, cerchiamo di rappresentare quelle che sono le conquiste, gli elementi, i sentimenti che proviamo di fronte alla natura. Non si può essere, non si può prescindere da questo fatto. Noi lo chiamiamo astrazione perché in questo caso si cerca gli elementari primordiali di quelle che sono le intuizioni di uno spazio naturale. Un giallo violento rispetto a un nero è un fatto, diciamo, per l'astrazione che si è conquistato. Per una pittura, per esempio, rinascimentale, questo fatto non poteva avvenire, in quanto che loro cercavano altre armonie naturali. Noi cerchiamo le armonie, in un certo senso, del nostro tempo, e dai futuristi, e dagli astrattisti primi, e da noi stessi abbiamo scoperto che gli elementi della nostra società si possono rappresentare a contrasti violenti. Le varie linee, per esempio, c'è una linea che tende ad andare verso l'alto, una prospettiva che tende ad andare verso un'altra posizione, cioè non c'è più un punto di vista fermo, ma un senso quasi di casualità, che è la componente un po' della nostra realtà. Il difficile è afferrare, diciamo così, quelli che sono proprio gli elementi del nostro tempo, vedere anche nei contrasti, anche nelle rabbie, anche nelle situazioni di scontro e di incontro che noi troviamo tutti i giorni, nelle disarmonie addirittura, tra giallo, nero, rosso, viola e celeste, cioè colori che apparentemente non si legano tra di loro, come apparentemente non si lega la nostra contemporaneità. C'è degli scontri, però anche in questo si può trovare l'armonia, la bellezza, la sinfonia. Il segno grafico ed il segno pittorico di Berti sono comunque nel tempo sempre più avvicinabili, tanto che la grafia, nelle nuove serie pittoriche, diviene molto più acuta e netta, mentre la parola, la frase, il verso diventano sempre più frequenti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?